Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Il due tempi gira allegro, perfetto e accordato alla traiettoria che hai scelto. Gli altri sono poco dietro. I motori li senti vicini, a pochi metri da te. Continuare a tenerli dietro dipende da quella virata. La curva è chiusa, si avvita su se stessa e riparte. La vedi nell'angolo estremo alla destra del tuo occhio, piegando e scomparendo dietro la schiena della montagna. Ora si decide. Fegato e coraggio. Mi chiamo Andrea Rebosi, ho 42 anni e vivo a Marano Vicentino, anche se gli ultimi 2 anni li ho passati per lavoro a Ferrara. Faccio l'architetto e da poco è cominciata una bellissima storia con una persona. Quando qualcuno vi chiede di pensare al momento, all'istante più lungo della vostra vita, di solito vi viene in mente un momento che è appena prima o appena dopo una notizia folgorante, buona o cattiva, oppure appena prima o appena dopo un avvenimento molto importante della vostra vita, un esame, la nascita di vostro figlio, la morte di qualcuno. Io però ho la sensazione che spesso i momenti più lunghi della nostra vita siano quelli in cui non si pensa a niente e non hanno a che fare con grandi avvenimenti oppure con grandi situazioni terribili o adorabili, ma semplicemente quando ad esempio si è alla scrivania e si sta fissando un punto senza pensare a nulla, per cui stai guardando l'evidenziatore che hai sul tuo tavolo ma non lo stai guardando realmente e da fuori qualcuno ti guarda e ti dice: oh, ci sei o non ci sei? Avete presente di cosa sto parlando? A me è capitato in Vespa venendo qua, ero fermo al semaforo e stavo guardando il semaforo rosso e stavo pensando a una cosa al semaforo rosso, in realtà però non ci stavo pensando e stavo fissando quella luce, ma era come se non la stessi fissando. Infatti poi è diventato verde e sono partito tipo 3-4 secondi dopo. Ecco, quelli forse sono i momenti più lunghi della nostra vita, quegli istanti che sembrano dilatarsi nel tempo, quelli in cui non succede niente, quelli in cui non stiamo pensando a niente. Se vi capita di ricordare però qual è stato il momento più lungo della vostra vita, qualsiasi sia stato il contenuto, la situazione o il frangente, oggi parliamo di quello. 349-238-6666. Oppure anche la mail, che è voisietequi@radio24.it, o il profilo Facebook, è sempre quello lì. Matteo Caccia, io sono qui. Ad esempio mi scrivono: beh, l'attimo prima della rincorsa degli 11 metri di Fabio Grosso, e qui vabbè si parla di quel 2 di luglio del 2006, finale Italia-Francia. Giacomo parla di un momento, ecco, Giacomo parla esattamente di quei momenti lì, quelli in cui succede qualcosa di gigantesco che rischia, in cui magari rischi anche tu e ti passa avanti tutta la tua vita, no? È come il finale di American Beauty, ce l'avete presente? Quando c'è la voce di Kevin Spacey che parla, dopo magari ve lo dico, perché non chiedetemi per quale motivo, ma io quel finale lì lo so a memoria, forse perché l'ho visto troppe volte. Dopo magari ci torniamo. Giacomo scrive: Giacomo è uno che va in montagna, non posso leggerlo tutti. Ecco, quando mi sono trovato a dondolare nel vuoto appeso a un unico moschettone su uno strapiombo di 700 metri, in un attimo ho pensato a tutta la mia vita. Ho pensato a mia figlia piccola che mi sorrideva innocentemente, a chi mi voleva bene, ho guardato i miei due compagni che mi incitavano a tirarmi su. Mi sono fatto forza, ho afferrato con due mani il pezzo di corda attaccato all'imbracatura e con una mano ho raggiunto ancora la corda fissa della vita. La corda fissa della via ferrata dove ero legato al moschettone. Ho cercato di farlo scattare e agganciarla ancora, ma la presa è sfuggita di nuovo e con un rumore che a chi non ne sa di alpinismo non si può descrivere, il dissipatore ha fatto scorrere ancora la corda e mi sono trovato a danzare nel vuoto e la mia mente si è svuotata. Wow. Francesco, il giorno della maturità. Ecco, appunto, no? Capita, sono sempre i momenti più o meno cardine della propria esistenza, o appesi a un moschettone o il giorno della maturità. L'attimo di attesa tra il ragazzo interrogato prima di me e quando mi hanno chiamato, panico ancora oggi. E poi c'è un altro pezzo invece, Barbara, eccola qua. Anni fa, al weekend market di Bangkok, ho perso mia figlia. Un istante prima la sua manina era nella mia e in un attimo era sparita. Minuti di totale apnea, un fiume di persone andava nelle quattro direzioni dell'incrocio, poi finalmente una visione. Un signore gigante, probabilmente svedese, mi viene incontro con Frida per mano. Mi guarda e io ho ripreso a respirare. Perché non rispondevi, le ho chiesto. Mi vergognavo. L'abbraccio più desiderato dopo gli attimi più lunghi. 349-238-6666. Il racconto di oggi, che è il racconto di Andrea, che non ho capito se è un mod oppure no, dopo glielo devo chiamare e glielo devo chiedere quando lo chiamiamo, riguarda un momento molto, appunto, molto più blando di questi, no? Dell'aver perso la figlia in un mercato a banco. Credo ci sia poco di più inquietante che una roba del genere. Ho perso mia figlia in un mercato a Bangkok. Forse a Casablanca è peggio. No, non credo. Banco, che è decisamente più suggestivo. Ecco, invece il racconto di Andrea, vi dicevo, è molto più blando. Cioè racconta di un attimo che chi va in Vespa o chi va in moto riconosce, che è il momento in cui passi dalla prima alla seconda, dalla seconda alla terza o dalla terza alla seconda. Tant'è, quando cambi marcia, e in questo caso ad Andrea succede qualcosa. Succede come nei fumetti, nei cartoni giapponesi, quelli che vedevi da piccolo in televisione. In quell'istante, in quel gesto che è un attimo, un secondo, un battito del cuore, tutto sembra fermarsi e attenderti. Si incartano e si mescolano pensieri, ricordi, emozioni. Un attimo che è una vita. Un secondo che la può cambiare o forse solo può rappresentarla per l'ennesima volta, questa stramba vita. In un gioco di corsi e di ricorsi, di avanti e indietro, che sembra ostinarsi a dimostrare sempre e comunque la stessa cosa. E così arrivi sulla tua curva che è lì, ad aspettarti, piegata verso destra, e a pochi metri dalla tua ruota anteriore. Si chiama Stracca Moreno e che raduna gli appassionati di Vespe e di lambrette storiche ed è organizzato da un restauratore del mio paese che tra giugno e luglio appunto raduna gli amici appassionati della zona e si va a fare un giro in montagna con le Vespe e con le lambrette. Il due tempi gira allegro, giusto, perfetto e accordato alla traiettoria che hai scelto, alla pendenza della strada, alla velocità, a tutto. Il gruppo, gli altri, sono poco dietro. I motori li senti vicini, a pochi metri da te. Continuare a tenerli dietro dipende solo da quella virata. La curva destra è chiusa, molto chiusa. Si avvita su se stessa e poi riparte subito. La vedi nell'angolo estremo del tuo occhio, piegando e scomparendo, dietro alla schiena di rocce della montagna. Ecco, ora si decide. Fegato e coraggio. Tieni giù la seconda e curvi largo, molto largo, alla boia di un cane. A sfiorare la roccia sul lato opposto e poi a sperare di tenere le ruote in strada, almeno per questa volta, solo per stavolta. Ma facendo correrle, ste ruote, veloci, sempre in tiro. Oppure, curva di sicurezza. Giù la prima al momento giusto, curva stretta e poi via, fino a rimettere la seconda quando sarà il momento. L'istinto mi dice, prima di sicurezza e curva stretta. La mia Vespa è del 1954, che è la prima Vespa col motore a 125. Io e mio fratello l'abbiamo messa a posto. Mettendola a posto abbiamo conosciuto questo restauratore, siamo entrati in questo club di esperti e dei maniaci di Vespe e lambrette, e da cui è nato insomma questa passione e questi giri che facciamo una o due volte all'anno. La manopola del gas si chiude per un attimo. Giù la prima e curva stretta. Ammortizzatore che pompa e rimbalza. Quasi subito, dopo quella frazione di silenzio, di blocco del respiro, la ruota davanti cambia direzione in mezzo a quell'attesa, come una barca che piega di bolina e si butta dall'altra parte per andare a riprendersi il vento, facendo girare la vela e concedendosi quell'attimo di sospensione assoluta. Il motore riemerge dalle onde della virata e ricomincia subito a urlare, a spingere, fino al regime di coppia massima. Ecco, ora la seconda. Ma tra la prima e la seconda c'è un abisso, una valle, uno spazio enorme. Pochi millimetri di non vita in cui è facile perdersi. E così la manopola non aggancia la marcia successiva e il cambio va in folle. La mia Vespa del 54 si pianta e cala di velocità quasi istantaneamente per effetto della pendenza della strada. Poi entra la seconda, imprecata e bastarda. Ma è troppo tardi. Con un rumore sordo che è di stanchezza e insofferenza insieme, il motore perde giri come se il peso di moto e pilota ad un tratto fossero il triplo. E così il gruppo di lambrette, tutto quanto, tutto al completo, sfila via di coppia sui motori che girano allegri.

inside the clothes, one to another, in a sort of manic, depressive way, that makes my joy collapse, in a way, it makes my nerves shut up, in a way, it's just a matter of time, we'll wait and see. Here we are, passing shapes in such a time. L'attimo più lungo della mia vita, David da Verona, i 50 metri sul ghiaccio prima di andare a sbattere contro il muro, e poi quando sono uscito fuori strada in Spagna con il mio camion, attimi indecifrabili. Il momento più lungo è stata una domenica pomeriggio in macchina ascoltando la radio, era il 5 maggio del 2002, Marco. Sì, ce lo ricordiamo. Ciao Matteo, che fine ha fatto la tua enduro? La mia enduro appartiene a quegli attimi in cui apri la finestra sotto casa e guardi giù e dici c'è qualcosa che non va, e va che semplicemente la tua enduro non c'è più, e quello è stato abbastanza lungo, non è neanche tanto lungo, ci ho messo 2 secondi a capire che non c'era più. Daniela, il momento più lungo è l'attimo frequente nevrotico di quando sei arrabbiata e premi il tasto invia del cellulare, mandi un messaggio del quale poi ti pentirai, è un attimo e già vorresti riaverlo per cancellare tutte le parole, tutte le offese dette. Daniela, c'è un modo per evitare di fare così. Guarda, io lo usavo quando mi veniva da mandare dei messaggi così sull'onda dei nervi o della passione. Prima di mandarlo alla persona a cui dovevo mandarlo, lo mandavo a me. Cioè proprio tu prepari il messaggio e fai il tuo numero di cellulare. Dopo pochi secondi ti arriva quel messaggio, lo leggi e vedi l'effetto che fa. 2 volte su 3 non lo mandi più. 349-238-6666, c'è un uomo però di là dal vetro, buonanotte, di là dal telefono, che ha una Vespa che ha 60 anni, mi pare. Pronto Andrea? Sì, ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, bene, grazie. 54, giusto? Quindi ne ha 58 di anni questa donna, sì, questa Vespa. Del 54 quella Vespa lì, sì. Quanto ci hai messo a rimetterla a posto? Ci avrò messo più di un anno, io e mio fratello, più di un anno a smontarla completamente, tirar via l'impianto elettrico, rifarlo, riverniciarla. Ma tu cosa fai di mestiere? Cioè sei uno che di manualità se ne intende, da smontare, rimontare? Oppure... Ma diciamo che come tutti i ragazzi da piccoli abbiamo smontato di tutto, motorini, biciclette, quindi... Sì. Io e mio fratello siamo riusciti insomma a smontarla, poi a rimontarla, insomma ecco, ci siamo fatti dare. Ci ha pensato qualcun altro, perché era la cosa che capitava a me quando andavo dal ciclista, quello che aggiustava le biciclette a Romentino, al mio paese, che io gliela portavo smontata, poi arrivavo e lui mi diceva sti mestieri qua li deve fare a uno che è capace, e quindi esatto, ogni volta che succede, esatto, li deve fare a uno che è capace. Quanto ci avete messo alla fine? Un anno, due? Più di un anno, sì, più di un anno. Senti, ma quanto vale quindi una Vespa restaurata e perfetta come la tua? Credo che valga sui 6.000 euro, sui 6-7.000 euro una Vespa così del 54, che è quella col fanale basso, per capirsi. Sì, guarda, la sto vedendo nella foto che mi hai mandato e che trovate sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi Siete Qui. Senti, però mi sembra di capire anche che di solito queste cose, tipo appunto mettersi a restaurare una Vespa e impiegarci più di un anno, si fanno quando o si è in grossa crisi sentimentale o quando una relazione sentimentale non la si ha proprio, quindi si è da soli come dei cani e quindi si cerca di impegnare il tempo. Però... ho sentito con felicità che hai trovato una compagna, Andrea. Sì, è una cosa recente, sì, di quest'anno, diciamo, del 2012, quindi... Ah, proprio molto recente. Molto recente, sì. Quindi diciamo che non è più tempo di restaurare Vespa, ecco, in quel senso lì è vero. Cioè, quindi temi di avere anche meno tempo per andarci in giro? Sì, no, spero che venga via con me, più che altro. O qua a Vespa o qua a moto, certo, una roba o l'altra. Senti, Andrea, tu il momento che ci descrivi, quello lì in cui scali la marcia, vabbè, entra la folle e grazie, arrivederci. Ciao. È un raduno, giusto? Sì, è un giro organizzato appunto da un restauratore qua del posto, che è restauratore, nel senso che adesso è morto, e che raduna... Proprio ex, quindi? No, direi proprio ex, nel senso che... Molto ex, restauratore, sì. E che raduna gli appassionati di Vespe e lambrette d'epoca. E tu li fai spesso questi raduni? Li faccio ogni anno, sì. Molto... Cioè, ma solo questo o ne fai? O ce ne sono? Perché immagino ce ne siano diversi. No, faccio solo questo, perché non è che posso andare chissà dove con quella Vespa lì, quindi questo lo qua immagino. Lo fanno qui intorno. E... Perché, scusami, la cosa divertente che si evince dal tuo racconto è per cui prima, mentre lo provavamo, Tiziano ha detto, ma che cos'è? Una gara? Ovviamente non è una gara, è solo un raduno, però essendo maschi ed essendo su 2 ruote, se c'è semplicemente uno davanti e uno dietro di te, immediatamente devi vincere, giusto? Diventa una sfida per forza, anche se è una sfida sull'orlo dei 40 all'ora, non è di più, però... sarà una sfida. Beh, è come se fossero 200. Senti, invece, dici che quest'estate la porti a Capo Nord, lei e la tua Vespa. Lei e la mia moto sarebbe bello, la Vespa no, perché mi tocca metterla su un camion per farla arrivare a Capo Nord. Senti Andrea, ti ringrazio moltissimo e in bocca al lupo per tutto. Grazie. Ciao, buona giornata. Ciao, ciao, grazie. Il mio momento è durato un anno, poi sono tornato dalla mia ex e ora abbiamo una vita splendida e a ottobre un bambino. Voi siete qui. E Andrea è qui nella sua foto, sopra ovviamente la sua Vespa del 54, è pronto per il suo raduno, ne ha due di fianco ma non sono belle come la sua. È, per chi ha in mente le Vespe, è come diceva lui, quella Vespa che ha il fanale appoggiato al paraurti, al parafango della ruota anteriore. È un color grigino, grigino topo che solo forse le lambrette o le Vespe dell'epoca avevano. Lui è splendido perché ha della roba, delle borse legate dietro, il casco in testa e qualcosa che si avvicina moltissimo a un borsello a tracolla. Anzi no, forse non è un borsello, forse è solo il contenitore della macchina fotografica. Però noi lo vediamo qui seduto sulla sua Vespa, ma ce lo immaginiamo su quella curva che non passa mai e che dura un'eternità. 349-238-6666 oppure il profilo Facebook è Matteo Caccia, io sono qui. L'attimo più lungo della tua vita, le ore prima della nascita di mio figlio ovviamente. E poi quando quel 31 dicembre di 2 anni fa siamo usciti in rosso su un caso neurologico, credo che si parli di ambulanze qua, e rosso sia il codice, che mi pare sia il codice più alto, cioè quello per cui c'è la massima urgenza. Non ne ho mai fatti, ma potrei considerare il BLS o rianimazione, ma Andrea però magari scrivimelo in italiano, perché se non ho fatto un corso alla Croce Rossa non so leggerlo. Il BLS o la rianimazione che viene fatta su persone incoscienti senza attività respiratoria e circolo venoso, devi rimanere tranquillo comunque e fare le cose giuste. Insomma, più o meno la traduzione è che c'è qualcuno che sta molto male e tu lo aiuti a riprendersi e ce la fai. C'è tra l'altro, non so se vi è capitato di vederlo, magari lo carico dopo sul profilo Facebook, a proposito di attimi lunghi e interminabili ed aiutare qualcuno che sta male, c'è un video bellissimo su Repubblica.it in cui si vede questo lupo che viene salvato da dei volontari, credo in Abruzzo, che sta male, viene recuperato da un fiume ghiacciato e il lupo è in stato comatoso e c'è una credo sia la guardia forestale o tant'è, chi si occupa di recuperare lupi che stanno male, se esiste un mestiere recupero lupi che stanno male, che fa la respirazione bocca a bocca a questo lupo e il massaggio cardiaco. Il lupo poi piano piano si riprende, insomma rimane privo di coscienza per un istante probabilmente lunghissimo e adesso pare stia bene. Poi magari lo carichiamo sul profilo Facebook, dove di solito lo dico adesso e non lo dico mai più, ma non è vero, lo dico sempre. Di solito carichiamo anche il podcast della puntata del giorno, cioè il podcast, per chi magari ascoltasse questa parola per la prima volta, non è altro che la registrazione di questa puntata. Potete però comunque scaricarvela gratuitamente sul sito di Radio 24 alla pagina podcast, ma anche se avete voglia di farlo senza dovervelo ricordare ogni giorno, abbonandovi ad iTunes, sempre gratuitamente, se dovete avere iTunes, ma cercate Voi Siete Qui e lo trovate. E poi anche, già che ci sono, ringrazio la mamma di, non mi ricordo più il nome, comunque è arrivato un racconto di un ragazzino di credo 13 anni, Margherita ti ricordi? 12 anni credo, che ha mandato il suo racconto a Voi Siete Qui @radio24.it attraverso la mail della mamma. Diamo conferma, tutti quanti ogni tanto ci scrivete, è arrivato il racconto? Sì, è arrivato il racconto, e come al solito lo mettiamo da una parte, ne cumuliamo almeno una cinquantina, quanti di solito, e poi io, Bonini e chi per noi, cioè io e Bonini in sostanza, chi per noi, siamo 1, 2, 3, e poi ci sono Stefano e Federico di là che però non riescono ad essere sempre qui, quindi sono arrivati, li leggiamo, continuate a mandarli, un episodio della vostra vita. Voi siete qui, @radio24.it. Il mio minuto più lungo, Amsterdam, mi alzo e non c'è più il pullman, portato via dalla polizia per divieto di sosta. Marco evidentemente sei, no? Sono perspicace, sei l'autista di un autobus. Il momento più lungo, quando una mia ex mi ha mandato a quel paese, avevo 17 anni, Mauro, però io vorrei sapere quanti anni hai adesso? Perché se ti è rimasto qui una roba di quando avevi 17 anni è che perché proprio non è scesa. Federico, quando mi sono perso in grotta, ore che durano ancora. Speleologia immagino. E poi ancora il momento più lungo della mia vita, i 2 secondi tra lo sgancio del paracadute principale aperto a metà e l'apertura del paracadute di emergenza. Wow, io figurati, il momento più lungo della mia vita, a questo proposito, quando mi sono lanciato col paracadute, non me lo ricordo, perché essendo svenuto è stato il contrario, è stato proprio il ma è già tutto finito? È già tutto qui? 349-238-6666, un altro che parla di paracadute, Antonio. Primo alla porta, secondo passaggio. Cosa vuol dire? Lancio notturno militare con paracadute. Questo sarà un gergo militare. Primo alla porta è tipo che ti chiamano, che sei davanti alla porta per buttarti. Secondo passaggio, non lo so, dai, le robe del militare non le so, non ho idea. Marco, quando ho visto arrivare l'onda dello tsunami del 2004, mi sono arrampicato come una scimmia. Vabbè, prima vi dicevo invece che questo chiaramente è un attimo che viene raccontato dalla letteratura e dal cinema in molti modi, no? Forse la letteratura fa quello in sostanza. Prende degli attimi, li smonta e li rimette e li proietta giganti, no? Ed è della cosa bella che riesce a leggere magari per 2 pagine che raccontano un secondo. C'è però in particolar modo il finale di un film che oltre ad avere il finale è anche uno degli intro più belli della storia della cinematografia recente, che è American Beauty. Io vi consiglio di ascoltarlo, vabbè, questo lo consiglio un po' per tutti, ma non mica solo io, di ascoltarlo in lingua originale, perché la voce di Kevin Spacey ha qualcosa di magnetico. Kevin Spacey fa questo monologo finale in cui racconta quel momento lì, il momento prima di morire, e lui dice: è il momento più lungo della mia vita, ma non è così, è molto di più, e lo fa in un modo straordinario, con una voce totalmente piatta, senza interpretare niente, senza dare dei giri, senza impennare, senza abbassare, eppure è ipnotico. E visto, facciamo così, non lo mandiamo quello di Kevin Spacey, visto che ce l'ho a memoria, prova a vedere se me lo ricordo io. Ho sempre saputo che ti passa davanti agli occhi tutta la vita nell'istante prima di morire. Prima di tutto, quell'istante non è affatto un istante. Si allunga per sempre, come un oceano di tempo. Per me fu lo starmene sdraiato al campeggio, ai Boy Scout, a guardarmi le stelle cadenti, le foglie gialle degli aceri che fiancheggiavano la nostra strada, le mani di mia nonna e come la sua pelle sembrava di carta. E poi la prima volta che da mio cugino Tony vidi la sua nuovissima Firebird. E mia figlia, Janie, e mia moglie, Caroline. Io potrei essere piuttosto incazzato per quello che mi è successo. Solo che è difficile restare arrabbiati quando c'è tanta bellezza nel mondo. A volte è come se la vedessi tutta insieme. Ed è troppo. Il cuore mi si riempie come un palloncino che sta per scoppiare. E allora mi ricordo di rilassarmi e smetto di cercare di tenermela stretta. Ecco, e poi scorre attraverso di me come pioggia e io non posso provare altro che gratitudine per ogni singolo momento della mia stupida e piccola vita. Non avete la minima idea di cosa sto parlando, ne sono sicuro. Ma non preoccupatevi, un giorno ce l'avrete. And then it flows through me like rain and I can't feel anything but gratitude. For every single moment of my stupid little life. You have no idea what I'm talking about, I'm sure. But don't worry. You will someday. Più lungo sono i 4 minuti e 35 secondi dell'ultimo chilometro della maratona di Torino. Davide, e ancora, il momento più lungo in libera, senza sicura, a 2000 metri. In libera, proprio in arrampicata libera. Ma è legale? Cioè ci si può arrampicare senza sicura a 2000 metri? O sei Manolo, free climber, quello della pubblicità dell'orologio? Paolo, accoltellato ad una gamba in Paraguay. Alfredo, sotto la valanga prima del soccorso. Alfredo, cioè, mi fa piacere leggere il tuo messaggio, vuol dire che sei qua a scriverlo. Michele, fermato dalla stradale mentre correvo a casa per un attacco di dissenteria, e come glielo spieghi lì? E lì è tosta, effettivamente. E poi ancora, quando mi chiama il commercialista. È vero, non è male. Quando ti chiama il commercialista, che nel mio caso è mio padre. Matteo, allora, sono arrivate le tasse, questo di solito a luglio. Niente, no, quest'anno va bene. Oppure, quest'anno un po' meno. L'attimo più lungo è stato quando ho trovato una coda dietro una curva e non sapevo se frenare o schivare le auto ferme. Ho fatto strike. Ciao, Emiliano da Roma. Invece, prima vi raccontavo, sapete, la storia di Barbara che diceva quando ho perso mia figlia al mercato di Bangkok, ci ha caricato le foto anche, e sono due foto, una è con lei e sua figlia e l'altra invece è solo sua figlia con uno zainetto rosso alle spalle e la faccia che hanno i bambini quando guardano degli oggetti strani a una bancarella, e lei scrive sopra: e dopo poco per lei non era successo nulla. Voi siete qui, Matteo Caccio, io sono qui al profilo Facebook, invece voi siete qui @radio24.it per continuare a mandare le vostre storie. Finita anche la puntata di oggi, a breve vanno in onda Cappedrago con Chiedo Asilo. In questi giorni c'è una puntata speciale, anzi quattro puntate speciali. Cominciano oggi, 27, 28, 29 e 1 di marzo. Sono quattro puntate speciali per festeggiare la settimana più funesta del quadriennio, cioè quella che ha al suo interno il 29 febbraio, essendo anno bisestile. Si chiama I Tre Porcellini, sono Gildo, Filippo, Ioris e Mamma Porcellina, credo. Vabbè, comunque, comincia oggi per quattro giorni. Chiedo Asilo speciale settimana bisestile alle 16:45. Grazie a Paolino Corleoni, a Tiziano Bonini, a Margherita Ina e a Federico Bernocchi. La storia di oggi era la storia di Andrea e parlava degli attimi che non finiscono mai. Quella di domani è la storia di Dario e parla di box. E così ho cominciato a frequentare la più bella palestra in cui sia mai entrato. Il Boxing Club Vercelli. Uno spogliatoio minuscolo e una sala allenamenti che entrerebbe in un garage, dove tutto sa di vecchio e di consumato.